Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, ben trovati, ben ritrovati. Dalla scorsa settimana insieme a Gigi Donelli curiamo questa rassegna stampa europea legata cioè a temi europei, Europa intesa soprattutto come Unione Europea 17 e soprattutto al ruolo delle istituzioni europee. Cominciamo quindi con un'analisi apparsa sul quotidiano La Voz de Galicia sull'atteggiamento di Bruxelles verso il Portogallo. Sentiamo che cosa dice questo articolo che si intitola Una lezione per Bruxelles. Já se sabia anunciado e repetido pelo governo o brutal aumento de impostos e a vida que os portugueses passam a ter. Trabalhadores e pensionistas têm de lidar com uma carga fiscal. Insomma, il Portogallo sta attraversando un periodo difficile. L'articolo è interessante, si intitola appunto Una lezione per Bruxelles. La critica principale è che il governo dell'Unione, perché questo è appunto la Commissione come dicevamo prima, non ha l'autorità per imporre misure economiche drastiche al punto da ridurre il benessere e da mettere a rischio il futuro dei cittadini di un paese membro. È un tema questo della perdita di sovranità dei cittadini dei singoli paesi quando la Commissione europea impone misure così drastiche. Inevitabile anche questa settimana parlare di Cipro che con i suoi problemi finanziari ha messo a rischio, in realtà continua a mettere a rischio la stabilità dell'Unione Europea e quella fragile armonia tra gli Stati quando si tratta di prendere provvedimenti per aiutare o salvare o fare un vero e proprio bailout come nel caso della Grecia, un paese appunto in profonda crisi. L'edizione europea del Wall Street Journal di ieri, che è un po' quella del weekend, quindi quella che riassume anche certo gli eventi del giorno ma anche quelli della settimana, ha due pagine dedicate all'Europa con quattro articoli. Il primo articolo è appunto dedicato a Cipro ed è intitolato l'accordo su Cipro mina la credibilità di tutti gli attori coinvolti. Non era mai capitato, scrive Stephen Fielder, durante un processo di bailout di un paese, cioè di salvataggio di un paese, che così tante persone perdessero la faccia per così poco denaro. Adesso questo così poco naturalmente è molto relativo, però è chiaro che salvare un paese come Cipro è comunque affare diverso da salvare un paese come la Grecia o altri paesi dell'Unione Europea. Non vogliamo nemmeno ipotizzare che possa esserci un salvataggio necessario per il nostro di paese, però appunto si tratta di economie con dimensioni completamente diverse. L'errore principale, secondo il Wall Street Journal, è stato il prelievo forzoso sui conti correnti, che sapete è stata una cosa senza precedenti. Beh, noi purtroppo avevamo avuto il precedente del governo Amato, però l'Italia fa sempre eccezione, però nel caso di un bailout è una cosa senza precedenti. Secondo il Wall Street Journal però, oltre a questo, che naturalmente ha, sapete le conseguenze che ha avuto sia sui ciprioti che sui russi, sui famosi cittadini russi che mettevano il loro denaro a Cipro, ritenendolo più sicuro che nel loro stesso paese, il meccanismo decisionale che ha portato a questo diktat della Commissione Europea a essere sbagliato. Subito sotto c'è un articolo che riguarda l'appello fatto da Olli Rehn, che è il commissario europeo per gli affari economici e monetari, come dicevamo appunto come se fosse una specie di ministro per gli affari economici e monetari del governo dell'Unione Europea, che ha fatto un appello perché si arrivi presto a una vera e propria unione bancaria. Qui possiamo dirgli in inglese a Olli Rehn, noi che leggiamo queste dichiarazioni, good luck, perché di questa questione dell'unione bancaria e di cambiare le regole perché le banche agiscano in un'armonia diversa e la BCE non debba sempre intervenire con dei diktat per l'appunto, si discute da molto tempo e l'obiettivo sembra ancora molto lontano. Poi c'è un terzo articolo dedicato al Portogallo, ne parlava prima il quotidiano spagnolo, ora ne parla anche il Wall Street Journal, perché il bailout del Portogallo in realtà non è ancora concluso, tanto che il Portogallo ha chiesto un'extension, un prolungamento dei suoi prestiti. Tra l'altro questa richiesta viene proprio da quella rilievo costituzionale di cui parlava il quotidiano spagnolo, che ha un po' aperto la strada al Portogallo, alle autorità portoghesi per in un certo senso ribellarsi a quelli che erano stati questi diktat sicuramente onerosissimi della Commissione Europea. L'ultimo articolo del Wall Street Journal che vi segnalo è su Cameron, il premier britannico. Sapete che la Gran Bretagna è sì membro dell'Unione Europea ma non è membro della zona euro, cioè ha mantenuto la sua sterlina, e il titolo di questo articolo è Cameron cerca alleati per cambiare l'Unione Europea. Sapete che forse in Gran Bretagna, adesso qui da noi, con Grillo e anche con altre forze politiche, si è parlato a volte di un'uscita dall'euro, addirittura di un'uscita dall'Unione Europea. Cameron in Gran Bretagna in realtà dell'uscita dall'Unione Europea si parla ciclicamente e naturalmente loro erano stati, proprio la Thatcher era stata una delle persone che erano riuscite a negoziare questo status particolare della Gran Bretagna, che ha mantenuto la sua amatissima sterlina. Ebbene, adesso scrive il Wall Street Journal, Cameron cerca queste alleanze, in particolare cerca una sponda in questi grandi cambiamenti che lui chiede. Il Wall Street Journal poi li elenca tutti: sarebbero in tema di giustizia, in tema di controllo dei confini, in tema di lavoro, in tema di parlamenti nazionali, in tema di mercato unico, e elenca il Wall Street Journal tutte le possibili, quello che passa per la mente di Cameron. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, è un articolo del Wall Street Journal. Comunque ci sarebbero tra le sponde cercate da Cameron la Spagna, Berlino e Parigi, quindi insomma i grandi dell'Unione Europea. Veniamo adesso invece a un altro articolo che viene un po' da lontano, ma che riguarda sempre la Commissione Europea. Viene dalla Cina, dal China Daily, che è un interessante quotidiano cinese che ci apre una finestra su questo immenso paese, quasi un continente, che è così complicato da decifrare. E sentiamo che cosa ci dice appunto questo China Daily. Ecco, non so, probabilmente non è chiarissimo, ma l'articolo che ho trovato di Mao Jing, riportato da China Daily, che ha un sito che è chinadaily.com.cn, riguarda un'inchiesta della Commissione Europea, che sapete ha tra i suoi molte attività una fortissima attività antitrust. In questo caso sotto la lente dell'antitrust europea c'è Mastercard, che è accusata di pratiche scorrette, di scarsa concorrenza. Mastercard è uno dei giganti delle carte di credito, dei circuiti di carte di credito. Se veramente la Commissione Europea troverà Mastercard colpevole di aver fatto in qualche modo di aver minato la possibilità di concorrenza con altri circuiti di carte di credito, rischia una multa di 740 milioni di dollari, che il China Daily sottolinea è pari al 10% dei ricavi di Mastercard nel 2012. Il problema è tra l'altro strettamente legato, e forse è per questo che i cinesi sono così attenti all'e-commerce, perché naturalmente sapete, ma la maggior parte di noi paga su internet attraverso con carta di credito, ed è un mercato in fortissima crescita in Cina, quello dell'e-commerce. Spero la prossima volta di avere tempi un pochino più concisi e di riuscire a segnalarvi più cose. Intanto un saluto e un arrivederci a sabato prossimo da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.